Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Io sarò il sindaco di tutti, mi occuperò degli interessi e dei benefici di tutti i cittadini genovesi, nessuno escluso. Tutti avranno il diritto di parlare con noi e noi ovviamente prenderemo le nostre decisioni sulla base di quelli che saranno gli input dei cittadini. È un risultato naturalmente inequivocabile, il tentativo di recuperare è stato un tentativo vano, anche se naturalmente ahimè stiamo verificando che i risultati sono risultati che caratterizzano una sconfitta del centro-sinistra a livello nazionale. Sembra che ci siano anche altre città d'Italia adesso che stanno festeggiando il centro-destra. Il centro-destra unito è una cosa importante. Una cosa importante è un segnale forte a tutta la nazione. Dopo la Caporetto di Genova, da dove deve ripartire la sinistra a livello nazionale proprio? Spero che non so che tipo di ricadute, ma spero che il centro-sinistra faccia una riflessione vera, seria, attenta, perché altrimenti è la debacle anche per i prossimi anni. E Ale, in Italia sapete si vota ogni 2 o 3 mesi per qualcosa o per l'amministratore di condominio quando non si deve votare per un sindaco o per un presidente di regione, un presidente di provincia, no, non si vota più per quelli, o un Parlamento. E allora questo turno sono a gioire nel centrodestra, a dire a sinistra basta, è il crollo e il teatrino è il solito. A sinistra sminuiscono un po', Renzi dice ma no, ma se vedete è andata a macchia di leopardo. Più a macchia di giaguaro, mi sembra. Non hanno smacchiato il giaguaro. Berlusconi che rialza la fronte e dice vedete in tutte le mie interviste cosa hanno portato, queste maratone di interviste cosa hanno portato, successi, vittorie, espiazione. È il momento dell'espiazione, sì caro presidente De Luca, è il momento in cui dovete un po' mettere la testa sotto la sabbia, riscaldarla un po' e ripartire. Fustigazione. Adesso. Anche fustigazione se vuole. Dai, su. Consolazione. Consolazione. Questo sì. Caro De Luca, sì. Vabbè, vi consoliamo. Non vi consolate neppure con la mia Sesto San Giovanni, l'ex Stalingrado d'Italia. Dopo 72 anni di guida rossa ininterrotta, anche lì ha vinto il centrodestra. Ragazzi, è così, questo giro è andata così, poi il prossimo giro chi lo sa. Intanto signori sappiate che a Gaggiano ci sono 23 gradi come ci fa sapere Andrea, mentre a, senti un po' Lorenzo, Madonna dell'uva secca, 26 gradi umidi. Ma che è? Ragazzi, fate i bravi, eh? Verona. Verona, dove ha vinto il centrodestra con Sboarina. 16 gradi a Columbus, nell'Ohio, dove, da dove ci ascolta sempre il fedelissimo Matteo, signori. Amico mio, a Modena meno 4, non mi prendere in giro, perché quella sta dei gradi è una questione seria, eh? Mario, fai il bravo, perché veniamo lì tutta la redazione di 24 mattino e ti spieghiamo che questo è un momento serio, eh? Bravo. 27 gradi, sereno, mare calmo, in provincia di Ancona, nel mare Adriatico. E poi a Zurigo 17 gradi, questo ci fa sapere Dani, a Zurigo 17 gradi, signori. E Ale, possiamo cominciare, dai che è lunedì, sono le 6:32 minuti, voglio subito salutare. Dobbiamo un attimo cambiarla questa per Federico Novella, perché è un po' come un pugno nello stomaco che ti arriva di soppiato. Federico Novella del PC4, buongiorno. Buongiorno, come state? Tutto a posto, tu? Molto bene, molto bene. Siamo tutti molto felici. E allora, eccoci qua. Insieme a te, caro Federico Novella, c'è uno che già gongola, è il nostro deputato preferito, Maurizio Bianconi, direzione Italia, signori. Bianconi, buongiorno. Buongiorno a voi. Ringalluzzito. Buongiorno a voi. Ringalluzzito, Ma io proprio no. No, ecco. No, perché cioè, come la fai la sbagli? Di coglionerie così grossa che sono proprio demoralizzato, guarda. Cioè? Che è la coglionerie? Cioè, che qui non ha vinto nel centrodestra, né ha perso il centrosinistra. No. Qui hanno vinto le liste civiche. Ah, ecco. Se lei va a vedere i risultati di Verona, per esempio, sì, si accorge che Forza Italia ha preso il 3,43. Se va a vedere quello di Padova, si accorge che Forza Italia ha preso il 4,01. Se va a vedere quello di Genova, si accorge che il Fratelli Italia ha preso il 5 e Forza Italia ha preso l'8. Cioè, quindi dice una volta che ci saranno le politiche, questi bei partiti che dicono di aver vinto. Esatto, sono tutte liste civiche che hanno riunito, diciamo così, un certo tipo di elettorato stanco delle liti, dei sindaci ormai consolidati. Quindi la lezione, quindi la lezione è quando vi presenterete, cari partiti verso i quali gli italiani nutrono una fiducia smisurata, esatto. vedremo, non solo, poi qui manca il 54% degli elettori e in genere alle politiche ne manca invece anche quando va male il 30, il 25, il 30%, quindi manca il 25% di elettorato. E c'è la latitanza sostanziale di chi è che dà le carte in questo momento, cioè il 5 Stelle, che non ha facce presentabili, dove c'è, come a Carrara, posto che io conosco bene, perché non solo in Toscana, ma è vicino a luoghi che frequento, dove c'è il disastro totale di una politica gestita in modo clientelare molto meridionale, senza voler offendere nessuno, ma c'è un deputato che fa il bello e il cattivo tempo alle politiche, si prende sempre il 30 al 35% e fa da sé solo, è uno che era del vecchio Partito Popolare e poi alle comunali ha fatto anche il sindaco un prete per due legislature, dove c'è il vuoto pneumatico, vince anche il 5 Stelle. Vabbè, insomma, cioè, quindi non c'è vittoria di centro-destra-centro sinistra. Ho capito, che deve fare? Il centro-sinistra oggi è leggere un libro vecchio. Dai, diciamo i candidati. Vabbè, allora i candidati appoggiati dal centrodestra e i candidati appoggiati. Civiche, sono le liste civiche. Ho capito. Di centrodestra. Li hanno appoggiati anche i partiti, però hanno preso poco. Ma li hanno appoggiati. Di complemento qui, I partiti erano completamente di complemento. Ma è bello quasi, perché hanno vinto a Pistoia. Ha vinto un ragazzo, mio amico, che è di Fratelli d'Italia, bravissimo figliolo. Sì. Ma il Forza Italia ha preso il 5,57. Ma insomma è bello perché durante la dopo le elezioni c'è il solito refrain dibattiti. La solita litania: abbiamo vinto, abbiamo perso. Vabbè, non ha vinto, non ha perso. No, abbiamo perso, per la verità non lo dice nessuno. No, comunque, ieri sera l'ha usato, lo ha detto. L'ha detto in maniera palese: abbiamo perso. Ieri sera Bianconi hanno come è irrefrenabile pagato oggi. Divisioni. È irrefrenabile Bianconi oggi. Apriamo il Parlamento, che così sentiamo Federico qua. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Insomma, saranno le liste civiche, ma per estremizzare, per sì, semplificare, questo si legge sui giornali. Insomma, no, infatti, quello che io contesto, che si legge sui giornali, vuol dire che non capiscono un caso. Aspetta, vabbè, ma si sa, noi giornalisti non capiamo. Ci informano veramente male. Noi giornalisti si sa che siamo fatti così. Dobbiamo sempre trovare un vincitore. Abbiamo un esponente punta di diamante, Federico. Per carità, però non è che puoi trasportare il risultato sulle politiche, è pure vero. È vero che c'è stata una grande affluenza, però di solito l'affluenza colpisce il centrodestra, non il centrosinistra. E poi l'affluenza, forse è anche colpa di quel genio che ci ha fatto votare a fine giugno, fateci votare a Ferragosto la prossima volta. Però insomma, un po' di segnali ci sono. Sì. Un segnale a Berlusconi, che ha fatto diverse interviste, anzi è stato quasi perennemente in televisione l'ultima settimana. Io ho aperto il frigo, mi è uscito Berlusconi due giorni fa. E quindi insomma qualcosa vorrà pur dire se il centrodestra si è imposto nella vecchia maniera. Ora lo chiamano modello Toti, però è il vecchio centrodestra. E un segnale l'hanno dato forte a Renzi, che ha perso i gioielli di famiglia, diciamo, del partito in questa tornata elettorale, perché Genova è una cosa clamorosa, La Spezia, Sesto San Giovanni è una cosa clamorosa. Dillo meglio, San Giovanni, dillo con più. Libri di scuola c'è scritto che Sesto San Giovanni, ragazzi, non può andare alla destra. Cioè, la mia città natale, Sesto San Giovanni, ecco, la Toscana sta cambiando colore, perché da quando Renzi è al potere il centro-sinistra in Toscana ha perso Livorno, Arezzo, Grosseto, adesso Pistoia, Carrara. Chiediamoci se sono coincidenze. Secondo me, con queste elezioni comunali, le persone hanno voluto fare il referendum secondo atto, e quindi hanno detto: Renzi, non va bene che tu hai detto che te ne andavi dalla politica e sei rimasto, non va bene che non ti sei fatto vedere nella campagna elettorale, visto che sei il capo del più grande partito del centro-sinistra, e questo è stato il risultato. Con tutte le precauzioni del caso. Senti qua anche Pizzarotti, riconfermato sindaco di Parma, che dice Beppe Grillo si starà mangiando le mani. Dovesse fare una telefonata a Grillo, che cosa gli direbbe? Ma penso che tanti staranno guardando questi risultati e penso che qualcuno si stia anche mangiando le mani. Però, come dire, la storia passa solamente una volta. Vabbè, ma qui ci sarà da commentare. Ho vinto io, ho vinto tu. Ragazzi, io vorrei andare a parlare di un'altra vicenda. Io non sono esperto di banche. Non sono esperto economico. Poi dopo ci sarà Oscar Giannino, parleremo, eccetera. Ma io ho l'idea di svegliarmi oggi alle 5 del mattino, lunedì. Venire qui, poi non mi portavano i giornali e in più devo mettere 7 miliardi di 5 miliardi pubblici. Già ero nervoso. Hanno completato l'opera. Ma porcaccia la miseria, Bianconi, ma che è sta cosa? Cioè, ma quanto deve mettere per salvare le banche venete, Bianconi? Il popolo italiano deve pagare la scelta, alcune scelte scellerate, a partire dal Monte dei Paschi, a partire da la vigilanza che non ha funzionato, a partire di una Banca d'Italia che ha abdicato, a partire da una politica, voglio dire, filo europeo e speculativa, e ora noi l'abbiamo tutti nel sottocoda, come dire, non saprei dire meglio. Con i nostri soldi si pagano le cazzate altrui. Bello. Noi abbiamo inventato addirittura il bail-in, come cavolo si chiama, per cui tenete i soldi in banca. Qui non c'è, appunto. Abbiamo scelto di non seguire il fallimento mettiamo europeo e il bail-in, no? Dopodiché no, decidono che il Benin non va bene, ci rapinano in un altro modo, attraverso l'Italia. Sì, questo è vero. Cioè dice no, fidatevi il bail-in fallimento, no? Così salviamo tutti i conti correnti, non scatta il bail-in. Però dovete però... dare 5 miliardi, forse, forse 12, forse 12. Adesso ci riuniamo, vediamo, 5 miliardi e 2 sicuro, forse 12. Tu... Non hanno i soldi per le pensioni, non hanno i soldi per niente, ma fra Monte dei Paschi e questi qui, si sono puppati non so quante decine di miliardi. Ma insomma, non lo so, se non altro Federico, avremo almeno un po' di azioni della nuova, delle nuove banche venete per pagare così? Cioè, ma non lo so, io sono rimasto sconvolto quando ho letto che Banca Intesa si prende solo la parte buona delle banche. Perché pagandola siamo, molto siamo, peraltro. Siamo una repubblica fondata sulla bad bank, sì, no? Sì, sì, sulla sì, bad company. Però paga molto Banca Intesa questa cosa. Paga un euro. Un io euro. Propongo, un facciamo euro. Una cordata, io, te e Bianconi, 3 euro. Io sono disposto a mettere un euro, 3 euro, mi sembra piuttosto conveniente. Sì, ecco. Sì, sì. Ma noi litighiamo da mesi con l'Europa per risparmiare lo 0,2% del prodotto interno lordo, poi ne spendiamo il doppio per salvare le banche. Quali banche? Sì. Perché poi sembra le banche. Le banche che negli ultimi 18 anni sono state gestite dalle stesse persone che hanno prestato allegramente ai loro amici, amici degli amici, in cambio di avere dei favori, va bene? E dopo 18 anni le banche si sono svegliate con un buco. Sì, qui c'è sempre la solita questione, però salvare le banche vuol dire salvare i correntisti, farle fallire vuol dire rischiare, e soprattutto la procedura del bail-in. Cioè, allora che si fa di fronte a questa situazione? Detto che la vigilanza non c'è stata, detto che i problemi si sono trascinati per anni nel... Ma guarda, a me la cosa che preoccupa non è tanto che si fa, è che cosa si farà, perché domani ci sarà un'altra banca che sarà nelle stesse condizioni. Certo. Allora, il messaggio che tu dai è che ci sono dei banchieri furbi che prendono i soldi dai conti correnti dei risparmiatori e li prestano così agli amici loro, e altri banchieri che si prendono le banche, solo la parte buona, grazie all'aiuto dello Stato. Sì. Se fosse una volta sola, per carità, anche una società liberale come gli americani hanno salvato le banche. Ma il problema è che non finisce qua, capito? No, esatto, non vogliamo fare l'elenco, anche perché lo sappiamo, ma ci sono già, secondo molti esperti, banche che sono le prossime, caro Bianconi. Sono le prossime in lista. Sì, sì, ma vede, c'è una proposta di legge giacente, mia e anche di altri, sono tutte uguali, che intanto prevedono dei rimedi. Il primo rimedio è tornare a dividere le banche di speculazione dalla banca che raccolgono i risparmi e prestano alle imprese e alle famiglie. Tutti dicono che va bene, ma nessuno prende questo provvedimento e passa questa leggina che è roba da niente. Quindi vuol dire che c'è un sistema che è schiavo di un altro sistema. Poi ci sono speculatori arditi come Bini Smaghi, che io ho denunciato con 3 successive interrogazioni, il governo non mi risponde, di come fanno i rider sulle banche disgraziate. Ecco. Sbagli ci ha lavorato quanto ha voluto per consegnare le banche italiane, o perlomeno alcune banche, alla Società Generale francese. Quindi c'è anche un'aggressione europea alle banche favorita da gente come Bini Sbagli e altri speculatori, e nessuno gli fa niente, perché federizzarca tutti una barca, cioè voglio dire, sono tutti insieme. Salutiamo Bini Smaghi, che sarà molto contento dopo questa. Ah, Bini Smaghi, glielo ho detto 100 milioni di volte, non risponde. Aspetto ardentemente un giudice che gli metta le manette. No, vabbè, Bianconi, adesso non ma io la penso, l'ho detto in Parlamento. Ho capito, lo pensa, va bene. Il governo non mi risponde. E lui avrà il diritto di dire che non è così, no? No, infatti, ma non lo dice. E lo dicesse, no? Ho capito. Comunque abbiamo un problema grosso con gli organi che dovrebbero controllare. E poi c'è gli organi di controllo, molti dei quali, alcuni dei quali esponenti di questi organismi sono stati assunti a lavorare nelle banche che adesso sono state liquidate. Questo non bisogna dimenticarselo. Zonin ha assunto 3 o 4 personaggi che dovevano verificare. Che dovevano verificare. E nessuno ha fatto niente. Ma pare una cosa normale. No, ma è chiaro che ci sia un problema generale. Il dato di fatto è che molti italiani si svegliano e non lo sapevano, glielo diciamo noi, se si sono svegliati magari ancora tutti con gli occhi incrostati, dovete pagare 5,2 miliardi per salvare le banche venete. Ho fatto un calcalcolo, scusate, sì. 5,2 miliardi diviso il numero di italiani fa esattamente 80 euro, quindi siamo pari adesso. Ah, adesso siamo pari. Ah, i famosi 80 euro. Beh, non è male. Bambini compresi, eh? Non è male, 80 euro, 80 euro. Vabbè, gli 80 euro a volte vanno, a volte tornano, a volte volano, a volte scendono. Che dobbiamo fare? Questo è 80 euro, signori, da restituire. Chi non li ha ottenuti li deve dare. Chi li ha ottenuti era uno scherzo per salvare le banche venete. Siete magari di Battipaglia? Non importa. Se dovete salvare le banche venete, siete di Cefalù, non importa, dovete salvare le banche venete, questo è. Dai, andiamo al traffico. Al mio segnale, scatenate il traffico. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. I due genitori che hanno per scelta loro non vaccinato i figli e hanno praticamente ucciso il loro terzo figlio perché leucemico e contagiato, adesso dovrebbero essere indagati per omicidio colposo. Vorrei fare un appello alla sindaca Raggia. Scusa, i cittadini romani ti hanno votato e tu fai la pappagalla con Peppe Grillo, che lui fa cri cri e tu rispondi cri cri, quello fa qua qua e tu dici qua qua. Non ti offendere, però insomma ti hanno votato e tu hai comandato, che cazzo c'entra Grillo? Caro Alessandro, se la Raggi si è data 7,5 punti, penso che il limite di velocità in autostrada dovrebbe essere portato intorno ai 200 km all'ora. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks when she looks at me, when she looks with such despair. È uno scandalo perché come si era preventivato di toccare il portafogli al grande comunista Fabio Fazio, subito voleva scappare probabilmente in alta TV alla 7. Ora che è arrivato il suo compare Orfeo, viene spostato a Rai 1, gli aumentano lo stipendio e non vuole più scappare alla Rai. A me sembra veramente un comportamento vergognoso. Signori, c'è anche il problema della TV, della TV pubblica, della Rai adesso, perché dai, parlare tanto di politica, io vorrei parlare di tante cose, vorrei parlare anche della vicenda di Marco Diele. Avete visto Marco Diele, mamma mia, l'attore di 1993, adesso ne parliamo. Però allora, la politica e la TV. Allora, Giletti è stato chiuso perché rompeva le scatole. Non c'è altra spiegazione, ditelo così. Abbiate coraggio lì in Rai. Davvero? Lo penso davvero, sì. Ti assicuro, lo penso davvero, perché ti assicuro che... Quindi stai dicendo che Renzi ha cacciato Giletti? Non so se... Non credo Renzi in persona. Non credo Renzi in persona. Ma è stato chiuso perché rompeva le scatole e a quell'ora, con quel pubblico, con quel successo, in vista delle elezioni non serve uno che rompe le scatole. Questo è. Ne ho informazioni abbastanza certe. Ah, ti vedo proprio. Così, la penso così e sono abbastanza certo di questo. Sicuramente sono certo che Massimo Giletti l'abbia percepita così. E la pensi così? E dai, su. Quindi è un martire. No, è talmente intelligente che lui mai si imporrà come tale. Però questo è il dato di fatto, è questo. Cioè, non iniziamo a dire altre cose su. È così. Ma guarda, non lo so, anche perché prima della presentazione dei palinsesti, naturalmente ci sono più svariate spiegazioni e siamo, se non sbaglio, ancora non abbiamo ricevuto una spiegazione da parte della Rai. Forse quella dovremmo pretenderla, no? Prima di capire se è stato cacciato per motivi politici, eccetera. Ci facciamo le nostre idee, però la cosa sicura è che lui faceva discreti ascolti e rompeva un po' le scatole. Non so, Bianconi, fai qualcosa, Bianconi, mobilitati. Ma io non mi commuovo alla sorte di Giletti, come non mi commossi alla sorte di Biagi, e di Santoro. No, ma non c'è da renderlo un martire, però non è, non, non è molto bello se viene chiusa una trasmissione perché dà fastidio. Va bene, è sempre stato così. E d'altro canto Berlusconi gliel'ha insegnato e Renzi l'ha fatto. Non so, uno, no, uno ha mandato i suoi e questo manda via quell'altro. Dobbiamo metterci d'accordo. La RAI è un servizio pubblico che finanziamo col canone? È cosa loro la RAI? È un'azienda di mercato. Perché, se, perché quando bisogna strapagare i conduttori è un'azienda di mercato e sono d'accordo. Quando invece si chiudono programmi di successo non è più un'azienda di mercato? Allora mettetevi d'accordo, deve fare ascolti la RAI o non deve fare ascolti? E non abbiamo ancora trovato una soluzione. Li faceva abbastanza Giletti lì con l'Arena. Allora, se deve fare ascolti non chiudi Giletti. Comunque non c'è da, non c'è da rendere martire nessuno, però è un po', fastidiosa. È fastidioso, ma è la regola, ripeto, una regola che hanno applicato da Beffa che parlava degli azionisti di riferimento per i suoi programmi, a Berlusconi, a Renzi. Se non privatizzano questo mostro farà sempre il gioco della politica. D'altro canto assistiamo a dei telegiornali che vanno a vomitare e nessuno pronto. Quindi ormai è così, non c'è niente da fare. Ecco, salutiamo. Cioè, non è che sono l'artista della RAI, stavo parlando dei telegiornali RAI, mica del TG4 con cui Federico Novella. Va bene, si sa che sono di parte. No, Federico questo è pubblica. Noi non siamo, a parte che non siamo un gruppo pubblico, esatto, poi, poi facciamo sentire quello che vuole, le campane. No. Facciamo sentire le campane. Oh, bravo, difenditi, difenditi. No, invece io dai, dobbiamo parlare due o tre minuti di questa vicenda di Marco Diele. Hai presente Bianconi chi è Marco Diele? Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. Perché, ragazzi, non, ne parlano tutti, questa è la verità. Allora, l'ultima si è saputo che si è messo alla guida, era distratto. Allora, era con la patente sospesa, con la macchina senza assicurazione, sotto effetto di stupefacenti, si è distratto col telefonino e nel momento dell'incidente. Per carità, ma non c'è da, c'è da augurare il male a nessuno. Io anche le reazioni a dire marcisca in galera per la vita. No, ha sbagliato. Peraltro, raccontano chi l'ha incontrato in carcere, un consigliere regionale dei Verdi, dice è distrutto, dice non sa come poter aiutare questa famiglia, dice vorrei inginocchiarmi, chiedere perdono, dice purtroppo sono dipendente dall'eroina, ha un problema grave. E però adesso che cosa si è scatenato? I parenti della vittima che dicono non pagherà abbastanza perché è famoso, e quelli che dicono beh ma dai però non accanitevi più di tanto sempre perché è famoso, e lo difendono un pochettino. Federico, voi tu come la vedi questa storia? Io la vedo che dovrebbe essere esattamente trattato come una persona non famosa. Ci mancherebbe che facciamo gli sconti agli attori, poi cominciamo, non so, vogliamo fare gli sconti anche ai giornalisti, ai calciatori, che vogliamo fare? Certamente il messaggio che ha lanciato lui è un messaggio di profondo pentimento, però tra l'altro la giustizia italiana mi sembra di capire, ricordando in molti casi passati, che questo pentimento lo apprezza e ti fa anche un discreto sconto sulla pena, a volte anche troppo. Però non possiamo neanche dire trattiamolo diversamente. No, trattiamolo diversamente, no. Bianconi, tu che dici? No, questo non capisco, perché quando ci sono i deputati bisogna trattarli diversamente in peggio perché bisogna dargli meglio. E quando c'è gli attori bisogna trattarli in meglio perché, insomma, poveri. Tutti vanno trattati nello stesso esatto modo. Questo è un fatto. Come? Non venite trattati malissimo voi deputati. Insomma, quando si va davanti ai giudici, io faccio un mestiere che lo vedo, non è esattamente come dici te, insomma, abbiamo trattati dai, però quando si arriva davanti ai giudici? Bisogna arrivarci, voglio dire, non è che la notorietà deve essere peggiorativa o migliorativa di un trattamento. No, ma è chiaro, è chiaro. Questo volevo dire. E volevo anche dire che abbiamo fatto una legge, secondo me, per certi versi assurda, ma per altri buona, sull'omicidio stradale. Lui l'ha fatta tutte, era senza patente, senza assicurazione, ero in nomine, aveva il telefonino, è meglio anche che ci facesse la danza della gioia. È logico che è pentito, anche perché è un bravo attore e si è rovinato la vita. Insomma, a volte avete tolta una. Alessandro. No, assolutamente, non bisogna essere più tolleranti. Io dico che questa qui stava una cartina di tornasole per vedere se questa legge che abbiamo fatto è una legge che esatto, poi... Insomma, cioè, rischia dicono chi dice 16 anni, chi dice 12 anni, comunque una pena. No, una la legge prevede pene molto molto alte, quasi omicidio volontario. Io credo che ogni giorno purtroppo ci siano incidenti stradali di questo tipo, dove persone che magari non hanno nessun problema si distraggono e uccidono delle persone e sono sinceramente ferite. Con quel telefonino, guidano col telefonino, ma lo sai quanti magari non fanno notizia in questo caso perché non sono attori di fiction, ma questo non vuol dire nulla, la legge è uguale per tutti, punto. Assolutamente sì, anche io sono d'accordo su questo. Assolutamente sì. Signori, come non mi commuovo agli detti, tanto meno mi commuovo al pentimento di questo imbecille, perché aveva tutto dalla vita, si è fatto otto tutto. Si commuoverà invece Federico Novella, visto che Massimo Giletti verrà a Mediaset. Diamo un'altra notizia così alle 6:56, no? Lo sai? A me no, francamente. Ti risulta? No, non lo so, raccontano così, dai, che è sempre più vicino a Mediaset. Non confermo, francamente. Non ne sai nulla. Appena succede vi faccio un fischio. Signori, comunque è un momento un po' strano, perché Gigi Dolla Donnarumma, dopo aver detto sempre oggi e domani con Raiola, ha detto forse trattiamo col Milan, e poi ha detto no, era un hacker, chiudo il profilo Instagram. Siamo agli hackeraggi a Donnarumma, siamo alla follia. Io devo salutare Federico Novella del TG4 e Maurizio Bianconi, direzione Italia, il nostro deputato. No, nostro nel senso nostro, perché gli vogliamo bene, non è che noi siamo una trasmissione organica direzione Italia. Dai, ci sentiamo alla prossima, ciao. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui alle 7:20 minuti, signori. Tra l'altro non ho celebrato a sufficienza il ritorno dell'Alpino Peter Bescapè in regia. Dopo lunghissime, interminabili ferie è rientrato qui. Ferie che sono state approvate nonostante la mia opposizione dal direttore del personale. E va bene, dai, Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione, tra poco Elisabetta Fusconi anche in redazione, anche Oscar Giannino, siamo qua tutti pronti a 24 mattino, questo è lo spazio dedicato alla lettura dei giornali, dunque la rassegna stampa, andiamo a sfogliarli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a lunedì 26 giugno, intanto i titoli, il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì ha come titolo principale stretta sulla sharing economy, dopo il caso Airbnb si apre una fase di nuove tasse e regole più severe. E poi ovviamente le amministrative, il leitmotiv un po' di tutti i quotidiani è... Vince il centrodestra. Il centrodestra conquista le città. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Mentre Repubblica crolla il PD, ritorna il centrodestra. Per il Messaggero, il ritorno del centrodestra. Il Fatto Quotidiano, la Caporetto di Renzi. Per la Stampa, schiaffo a Renzi. Vince il centrodestra. Per il Giorno, disfatta PD. Per Libero, PD in ginocchio, destra in volo. Mentre per La Verità, che esce in edizione speciale, di solito il lunedì non è in edicola, ma per l'occasione sì, sberla a Renzi e all'inciucio. Il Giornale, centrodestra boom, rottamato Renzi. Come vedete il leitmotiv appunto è questo. Tra poco vedremo le amministrative, però io voglio partire da altre notizie. Notizie di cronaca, e su tutti i giornali la notizia di cronaca forse più importante da un paio di giorni, ieri un po' a margine, oggi più sviluppata, è la vicenda che coinvolge una persona famosa, perché è un volto noto, un attore che è diventato famoso con la fiction 1992, poi 1993, si tratta di Marco Diele, e sapete che cosa ha combinato? Un incidente. Guidava la macchina, peraltro macchina senza assicurazione, lui senza patente perché la patente è sospesa per problemi legate alla cocaina, guidava sotto effetto di stupefacenti e ha ucciso una persona, Ilaria Di Lillo, 48 anni, travolta nel suo scooter. E tra l'altro Marco Diele, disperato in carcere, dice anche: mi sono distratto col telefonino. Quindi voglio dire, un corollario davvero di situazioni del peggio dei comportamenti quando ci si mette al volante. Che cosa succede? Tutti i giornali ne parlano. Intanto il colloquio in cella di Marco Diele, è andato a trovarlo il consigliere regionale dei Verdi Borrelli della Campania, che tra l'altro è stato nostro ospite venerdì, anche se per altri motivi. Mi inginocchierei davanti al padre della vittima chiedendo perdono, dipendo dall'eroina, ma mi sono distratto col telefonino. Questo è il senso del colloquio in cella. Fulvio Bufi, pagina 24 del Corriere della Sera, racconta di Domenico Diele, jeans neri, camicia grigia che indossa e glieli hanno dati i compagni di cella. Domenico Diele ha le maniche arrotolate fin sopra i gomiti, con le dita si tormenta le braccia, si vede subito che sta male. Dice: sì, sono in crisi di astinenza, ma è giusto così, è giusto che soffra. Al consigliere regionale dei Verdi, Borrelli, che lo incontra nell'ambito di una visita ispettiva al carcere di Fuorni, alle porte di Salerno, ha subito una domanda da porre. Secondo lei come potrei fare per aiutare la famiglia di quella donna? C'è qualcosa che posso fare? E insiste: urlerò la mia colpevolezza con tutte le forze. Non ho scuse, ho sbagliato e devo pagare. Devo pagare quello che decideranno i giudici, e se servisse a qualcosa pagherei di tasca mia qualunque cosa alla famiglia. Però non sono un criminale. In televisione si parla di me come un assassino drogato. Non è così. Non sono uno che prima si è drogato e poi si è messo a guidare come un pazzo. Sono dipendente dall'eroina, questo sì, ma la droga non c'entra con l'incidente. Mi sono distratto col cellulare. Ho un telefonino che funziona male, c'è un tasto che non va e io per fare una telefonata ho abbassato gli occhi. Non mi sono reso conto dell'incidente, solo quando sono sceso dall'auto ho visto e ho capito. E poi aggiunge in questo suo sfogo: ho solo il lavoro e se da questa vicenda uscirò con la carriera distrutta non avrò più nemmeno quello. È giusto che paghi per quel che ho fatto, ma che non che mi si dipinga come un criminale. Quella storia della cocaina, per esempio, è vecchia di un anno, nemmeno la ricordavo più quando hanno trovato un po' di droga nel mio portafogli. Mi sono anche stupito, me l'ero dimenticata lì. È vero anche che non avevo il permesso di guidare, ma l'ho fatto perché mia cugina ci teneva ad avermi al matrimonio in Calabria e l'unico modo per esserci è andare a tornare in macchina in giornata. Infine, vorrei incontrare il padre di quella donna, inginocchiarmi davanti a lui, ammettere le mie colpe, ma anche provare a spiegargli che è stato un incidente e non un omicidio. E niente, questo è il racconto ovviamente del consigliere Borrelli che lo ha incontrato in carcere. L'ira del padre è l'articolo proprio sotto. Quell'attore ora sconti tutta la pena da parte dei familiari della vittima. Cioè l'idea, insomma, che non debba essere in qualche modo più tenera la giustizia con lui in quanto persona famosa. Tra l'altro La Stampa, con Grazia Longo, dedica una pagina a questa vicenda, racconta il segreto di Diele alla guida anche sul set senza patente. Cioè, tre giorni fa, nel girare il film Vita Spericolata, non ha raccontato a nessuno di essere senza patente. E per interpretare il ruolo di un pilota di rally in questo road movie di Marco Ponti, Vita Spericolata, non ha raccontato questo e ha fatto il Chuck lunedì scorso, nelle cui riprese del film ovviamente lui guidava pur non avendo appunto la patente. E va bene, questa vicenda comunque rimane con molte polemiche sui giornali, come era stata anticipata la scorsa settimana. E ora, come ha sentito anche il giornale radio, è ufficiale, è uscito dal carcere invece il rapitore di Farouk, Matteo Boe, che ha lasciato il carcere di Opera nel Milanese dopo 25 anni. Ha rapito, tra gli altri, da un esponente di quella malavita sarda che faceva, metteva in atto i rapimenti di persone, Farouk Hassam, bambino di 7 anni a cui fu tagliato anche un pezzo di orecchio. L'articolo più interessante che vi segnalo sull'uscita di Matteo Boe è questo, è di Laura Secci sulla Stampa, pagina 19. Perché è quello più interessante? Perché Laura Secci è la persona che ha scritto un libro con Matteo Boe e che è andato a prenderlo in carcere e lo ha accompagnato all'imbarco per la Sardegna. Quindi è la persona che, testimone oculare anche del viaggio in macchina dal carcere al traghetto, e quindi è colei che può raccontare meglio di tutti che cosa è successo. E infatti Laura Secci, pagina 19 della Stampa: il rapitore di Farouk torna libero, non vedo l'ora di camminare. I secondini si fanno un cenno tra loro, è tutto organizzato, uno sferragliare di chiavi, il suo sguardo dritto mi buca gli occhi, abbozza un sorriso di cortesia, allunga la mano destra mentre con la sinistra si accarezza la barba e dice andiamo. È una giornata bellissima, commenta spiazzandomi, per fortuna non c'è il sole accecante che annebbia lo sguardo. Guarda fuori dal finestrino come vedesse un quadro appeso. Gli slanci emotivi non sembrano appartenere al suo carattere, o nella lunga carcerazione 25 anni ha imparato bene a smorzarli, nel bene e nel male. Ogni domanda suonerebbe invadente. Metto su, come concordato con lui, musica classica, la suite numero 3 di Bach, così parlò Zarathustra di Strauss e la Moldava di Smetana. Mentre Callas canta Casta Diva, socchiude gli occhi verso la pianura lombarda. Quanto verde, un tappeto infinito, commenta. In Sardegna invece non piove mai, povera la mia terra, sussurra. E poi commenta, le macchine sono tutte uguali, stesso colore, non si distinguono più l'una dall'altra. Prima c'era la 127 gialla, le 500 blu elettrico, ora tutte nere e grigie e i modelli tutti simili. E poi guarda incuriosito il cellulare, ma come fate a vivere sempre col telefonino in mano? Per carità, è una schiavitù. Quando manca poco all'arrivo, non vedo l'ora di camminare, l'auto mi fa venire la nausea fin da ragazzo. Questo è il viaggio raccontato da Laura Secci per la Stampa, poi continua ovviamente, della uscita dal carcere di Matteo Boe. 25 anni per il bandito dagli occhi di ghiaccio, non ha mai chiesto sconti a questo Stato e ora esce dal carcere. Di solito a quest'ora vi racconto l'articolo che mi fa pizzare della settimana. Oggi invece no, vi racconto una bella storia, perché spesso mi scrivete anche di ma come sempre articoli brutti. Una bella storia, volete una bella storia? Eccola qua. Marco Gasperetti la racconta sul Corriere della Sera. Succede al Livorno. All'asta la casa di un disabile, un anonimo benefattore la compra e gliela restituisce. È una bellissima storia. Il benefattore non ama i riflettori, non vuole che il suo nome finisca sui giornali, che sia pronunciato come si fa con un mecenate o un santo protettore, perché commenta, quando si fa del bene lo si fa e basta, senza pubblicità, senza altri fini. E allora questo signore ha letto la notizia di un disabile al 75% con soli 257 euro di pensione al mese, che ha perso il lavoro per circostanze poco chiare e stava per perdere la casa che è stata venduta all'asta giudiziaria. Il benefattore ha chiamato il sindaco Filippo Nogarin, lo ha messo in contatto col fratello del disabile e poi ha deciso di fare cosa? Ha comprato all'asta giudiziaria la casa e l'ha restituita a titolo gratuito a questo disabile, dando a lui il diritto di rimanervi per sempre senza pagare un euro d'affitto. Se un domani vorrà acquistarla di nuovo, la riavrà al prezzo che l'ho pagata io. Se non avrà questi soldi, potrà restare lì a vita. È questo il gesto di un anonimo che dice: il bene si fa senza pubblicità. Succede a Livorno. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il sindaco neoeletto, dell'informazione. No, però dobbiamo parlare di amministrative, rispondendo anche all'ascoltatore che con il solito fare polemico, mamma mia, quando vi svegliate così polemici, io dico, ma perché non siete rimasti a dormire fino alle 2 del pomeriggio, che l'Italia ne beneficerebbe, pur di non parlare della disfatta del PD, parli di qualunque cosa. Ah, che noia che siete. Ma vi voglio bene lo stesso. Chi noi che siete quando scrivete così, caro ascoltatore. Eccoci qui. La disfatta del PD. Parliamo di questo, ne parlano i giornali. Come racconta Marco Galluzzo a pagina 2 del Corriere della Sera, per il centro-sinistra è una debacle, una sconfitta forse prevista, ma non in queste dimensioni. Cedono roccaforti del consenso del PD come Genova e Pistoia, La Spezia e Carrara. La coalizione formata da Berlusconi, Salvini e Meloni vince nella maggior parte dei capoluoghi finiti al ballottaggio. L'entusiasmo di Renato Brunetta, che dice vinciamo a Verona, a Genova, a Catanzaro, pochi minuti dopo i primi exit poll. Indubbiamente è Genova il dato che si impone, ma anche Pistoia segna il ritorno del centrodestra oltre alla Spezia. In Emilia-Romagna al PD riesce un capolavoro al contrario, perde 6 comuni su 6, tra cui Parma e Piacenza. Roccaforte del centro-sinistra, dove il PD non aveva mai perso, Genova è teatro del più grande colpo di scena. Secondo il modello di un ritorno alla coalizione tra Lega e Forza Italia, il nuovo sindaco di Genova, Marco Bucci, batte Gianni Crivello. Ma poi anche, per esempio, simbolicamente, Sesto San Giovanni non è solo la mia città natale, insomma, da 72 anni da sempre era in mano al centro-sinistra, e invece anche a Sesto San Giovanni vince il centrodestra. Ecco perché Berlusconi gongola e dice «Sono tornato e si vede, sto già scrivendo il programma». Pagina 3 del Corriere, Francesco Verderami racconta «L'Italia è un paese moderato». Questa è la frase di Berlusconi. «Se sapremo restare uniti, riusciremo a vincere le elezioni politiche e a governare. Lo faremo con un programma che sto scrivendo e renderò noto tra qualche tempo». Parla Berlusconi e per una volta... E per una notte la Seconda Repubblica pare rinascere dalle proprie ceneri. Il successo del centrodestra amministrative è inequivocabilmente, e la storica conquista di Genova amplifica un risultato schiacciante sul centro-sinistra, un obiettivo inseguito che fa sperare per il futuro, dice il leader di Forza Italia. In realtà, scrive Verderami, questo ritorno al passato è dovuto all'assenza dei 5 Stelle dalla contesa, è un fenomeno effimero che rischia di trasformare la notte dei ballottaggi nella notte degli equivoci, sia per l'esiguità del test, per il modello di voto a doppio turno, per una serie di nodi politici che finiscono per legare vincitori e vinti, il Cavaliere e Renzi. Berlusconi deve gestire un successo che proietta il centrodestra oltre il suo fondatore, perché a Genova si afferma il prototipo di una coalizione che mette in conto di muoversi addirittura in autonomia dall'ex premier e al suo sponsor nel governatore ligure Giovanni Toti, che tra l'altro, ricordo, sarà nostro ospite alle 8:15. Dall'altra parte, infatti, c'è un Renzi un po' dimesso sicuramente, non grandi commenti pubblici non ci sono stati, ma nei commenti ai suoi eravamo destinati a perdere se l'unico nostro schema è allearci con la sinistra. Renzi che dice in pratica nei commenti, questi almeno dei giornali, lo sapevano tutti chi avrebbero vinto, ma le politiche sono un'altra cosa. Ha capito già qual era l'andazzo nell'epoca dei social, nelle notizie che rimbalzavano di qua e di là, vere o false che fossero. Renzi che commenta, lo sapevamo che avrebbero vinto i candidati del centrodestra. Questo nell'articolo retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 5 del Corriere della Sera. Anche Elisa Calessi, che sarà nostra ospite dalle 9, la sconfitta spinge Renzi nelle braccia di Silvio. Dopo il diluvio ancora me, c'è un vento di destra evidente, un vento di Lega più che di Grillo. Questa è la lettura che Matteo Renzi coi suoi dà a questo turno elettorale. Il foglietto che gira al Nazareno con le 7 principali sfide in gioco, cioè Genova, Parma, Verona, L'Aquila, Taranto e Catanzaro, diventa, col passare delle ore, un campo di guerra, una battaglia navale persa. E quindi ecco l'idea, secondo Libero, che ancora di più serve un accordo con Silvio Berlusconi. Per Repubblica invece la disfatta nel centro-sinistra riapre il congresso Dem. Renzi si difende. Poteva andare meglio. Goffredo De Marchis racconta di pensieri cupi, ammissioni di sconfitte, la sede del PD nel Nazareno quasi deserta, simbolo plastico di una giornata. No. Cosa si dice tra i membri del quartier generale? Che i risultati sono brutti e questo non sarà negato con la formuletta del voto locale, che in Italia soffia un vento di centrodestra e la sfida delle elezioni politiche alla fine sarà contro Berlusconi e Salvini. Che i 5 Stelle sembrava dovessero vincere fino al 2030, invece alla fine il duello sarà tra i poli tradizionali. Questo almeno nella politica, che tutto cambia in pochi secondi, pare che sia l'idea. Toti, che ripeto sarà il nostro ospite alle 8.15, dice alle 8.20: il mio modello sta funzionando perché non rottamiamo nessuno, è il modello dell'unità del centrodestra, tanto che, questo lo chiederemo, sembra che su questo in una cena si sia scontrato con Berlusconi, che invece vede Salvini come il fumo degli occhi. Invece Toti punta a dire no, ci vuole il centrodestra unito. Oh, in tutto questo bisogna parlare delle banche, le banche venete, l'altra grande notizia del giorno, perché lo Stato pagherà 5,2 miliardi a Intesa e c'è il salvataggio delle banche venete. C'è ovviamente la polemica per come è arrivato questo salvataggio, perché Intesa, con una spesa simbolica di un euro, di fatto prende il positivo di Veneto Banca e di Popolare di Vicenza. Le bad bank saranno invece guidate da commissari e lo Stato mette subito a disposizione 5,2 miliardi a Banca Intesa, ma con garanzie su altri 12 miliardi. Ora, chi è lo Stato? Vi fate questa domanda lunedì mattina. Chi è lo Stato? Siete voi, cari ascoltatori. Allora, leggo dall'articolo di Luca Pagni su Repubblica, pagina 12. Sulla facciata l'insegna dice ancora Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ma da ieri le banche del Nord-Est non esistono più. Sportelli, dipendenti, attivi sono passati a Intesa San Paolo, che rafforza così il ruolo di numero uno del paese. Lo ha stabilito un decreto del governo approvato con procedura lampo giusto in tempo per la riapertura delle filiali di stamattina e dopo che la BCE aveva decretato il dissesto delle due banche. L'operazione prevede la liquidazione coatta delle due banche e il fatto che Intesa ne rilevi le attività migliori per un euro avrà dallo Stato una dote di 5,2 miliardi, 4,8 per mantenere i suoi ratio patrimoniali e 400 milioni come garanzia se alcuni dei crediti acquistati andassero in difficoltà. Gentiloni, presentando l'operazione insieme al ministro dell'economia Padoan, si è spinto oltre Padoan spiegando che l'ammontare di prestiti garantito può arrivare in teoria a 12 miliardi. Significa che lo Stato sta offrendo una disponibilità che potrebbe arrivare a 17 miliardi? Sì, secondo molte interpretazioni che circolavano ieri sera. No, secondo fonti di Banca Italia, che spiegano come quei 12 miliardi siano in realtà le attività che resteranno in mano ai liquidatori. 10 miliardi di crediti di cattiva qualità, 1,7 di partecipazioni, come ad esempio quella di Arca, in Arca o in BIN. Si tratta in sostanza degli attivi della bad bank che rimane in mano allo Stato. Comunque il decreto andrà ben studiato. Di certo i titoli sono quelli: in Veneto lo Stato investe 17 miliardi, Intesa un euro, questo è il titolo per esempio del Fatto Quotidiano. Tra l'altro sulla Stampa si racconta, con Alessandro Barbera e Gianluca Paolucci, che non è vero che non ci fosse un'altra soluzione, anzi un'altra soluzione stava per essere praticata. L'articolo, il titolo è «Quelle ultime 24 ore in cui si è rischiato di far saltare l'accordo». Scrivono Barbera e Paolucci sulla Stampa: non è vero non ci fossero alternative alla soluzione varata ieri sulle banche venete. È vero che si trattava di una soluzione estremamente rischiosa, non solo per la politica. Venerdì pomeriggio lo scenario della risoluzione del fallimento interno previsto dalle nuove regole europee è sembrato per un momento inevitabile. La trattativa tra Tesoro, Intesa e la Commissione si era arenata attorno ai costi degli esuberi necessari a risanare ciò che resta di buono dei due istituti. Il numero uno della banca, Messina, era indisponibile a dover gestire licenziamenti obbligatori. il tesoro indisponibile a aumentare i costi per le casse pubbliche. Poi c'è chi dice, grazie alla mediazione di Renzi e Gentiloni a Bruxelles, l'impasse è stata superata. Non era scontato riuscire a tenere insieme l'esigenza di minimizzare il costo del salvataggio per Intesa senza buttare al macero le regole europee sugli aiuti di Stati. E dunque l'accordo è stato salvato. Cosa succederà? Beh, questo lo vedremo. Se avete due eurini, teneteli da parte. Caro Mauro Beazza, comincia tu, per favore. Oh, ma caro Alessandro, pur di non parlare di Donnarumma, si parla di qualsiasi cosa. A cui hanno hackerato il profilo Instagram, così ecco, dice. Ecco, vedi che così vuoi dice. Silenziare queste notizie scomode per te, questo vuoi fare. Va bene, invece non silenziamo la poesia, caro Alessandro. Bravo. Perché oggi è lunedì e quindi, come ogni lunedì da un po' di tempo in qua, è il momento dell'endecasillabo che ti racconta cosa c'è in evidenza sul Sole 24 Ore di oggi. Con il tuo permesso, ma anche senza, procedo. Oggi ti raccontiamo quanto si estende dall'equatore infino al mar di Bering quello consumo a prestito che prende le cose altrui e che si chiama sharing. Mal certo, tra le tasse e i diritti, già crebbe come pianta un po' selvaggia, ma li controlli ognor si fan più fitti e li rincari dello fisco assaggia. Leggi dal sole se vuoi aver contezza di come a condividere puoi fare, restando sempre in lieta correttezza e senza alcuna multa da pagare. Poscia che avrai compreso leggi e conti, poni lo sguardo ai lidi conosciuti, che questa è settimana degli acconti, nocchiero ti sarà norme e tributi. Bada, poiché la nota manovrina qui cadde come corpo morto cade sugli F24 malandrina, tocca ricalcolare e non di rade. Infin viene l'esperto che risponde a chi cede in affitto un loft o un attico. Se or la cedolare lo confonde, corra all'edicola, pur se sta nel traffico. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Alino Milan, il brodino di pollo dell'informazione. E va bene, cari ascoltatori, allora, questi sono i temi più importanti, dunque le amministrative, le banche. C'è anche qualcosa d'altro. La politica litiga sulla questione della TV. Perché c'è un caso, dopo il caso Fazio, lo stipendio, il rinnovo a Fabio Fazio in Rai, c'è il caso Massimo Giletti, perché l'Arena è stata cancellata. E da Chiambretti a Mentana un coro di difesa per Giletti. Questo è il titolo, per esempio, dell'articolo di Laura Rio a pagina 14 del giornale. Continuano le polemiche per la chiusura dell'Arena. Forse oggi c'è un incontro tra il giornalista e i vertici Rai, dice il giornale. Massimo Giletti mai si sarebbe immaginato nella sua vita che un coro di giornalisti e politici si sarebbe levato in sua difesa. Invece, da Enrico Montana a Chiambretti, a molti esponenti del centro, di Forza Italia, della Lega, Mara Carfagna, Gasparri, Salvini, Gianni San Marco, di Alternativa Popolare, tutti hanno preso posizione contro la chiusura dell'Arena, talk show del primo pomeriggio della domenica, sparito dai palinsesti TV. Stessi politici che più o meno si indignano invece perché Fazio è stato ricoperto d'oro per rimanere in Rai. Ogni spazio in meno per l'informazione è una perdita, scrive per esempio su Facebook Mentana, ma quando viene soppresso un appuntamento di successo è un autogol. Mentre Chiambretti, povera Rai, non ne azzecca più una, cancella Giletti, premia Fazio che un giorno sì e un giorno no se ne vuole andare. Insomma, il caso delle trasmissioni televisive tiene, anche perché Il Giorno titola addio Rai col punto di domanda, cioè Massimo Giletti sbatte la porta, non gli basta l'offerta di fare uno show e potrebbe passare a Mediaset. Questo almeno racconta Il Giorno. Guardate qui anche su Libero, cacciare Giletti è una vergogna, la levata delle firme. Se vogliamo parlare di attualità internazionale, voglio segnalare due pagine molto intense Le scrive Lorenzo Cremonese, che ha inviato il Corriere della Sera a Mosul, in Iraq, nel nord dell'Iraq, dove si combatte per l'assalto finale contro l'ISIS. Racconta Lorenzo Cremonesi. L'articolo si intitola «A Mosul tra macerie e feriti e bambini soli, la caccia per eliminare i foreign fighter». La bambina non avrà più di 6 anni, arriva alla moschea Zaldin, stringendo forte tra le mani un consunto biberon giallo e rosa col ciucciotto tagliato. Piange, il corpo scosso da un tremolio incontrollato, inconsolabile. I suoi capelli biondi sono incrostati di terra, il vestito stracciato. Con gesto meccanico si porta il biberon alla bocca, succhia aria sporca. Quando finalmente all'infermeria di Fortuna, tra le macerie e le serrande squarciate dai cecchini e il fumo degli incendi glielo riempiono d'acqua, lei vi si attacca disperatamente e beve tutto in un fiato e poi piange ancora. Non conosciamo il suo nome, è figlia di una famiglia che abita nella via parallela alla nostra, nella città medievale, dicono. Pensiamo che siano tutti morti per un missile. Lei è orfana, sola, si è unita a noi un'ora fa mentre cercavamo di fuggire dalle pattuglie dell'ISIS per raggiungere i militari iracheni. Spiega così tra le lacrime Sana Rahman, 40 anni. Ma lei stessa ha altro a cui pensare, il marito, 50enne, Abdel Ali, che giace di fronte a noi su una vecchia barella insanguinata col corpo scurito da varie ustioni, la pelle che si sta castrati, svenuto, magrissimo per i mesi di fame patiti nell'assedio. Ecco, questo è l'inizio dell'articolo, il reportage dell'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi da Mosul. Questa è la situazione, sono 2 pagine, 16 e 17 del Corriere della Sera, in cui si raccontano i cecchini nella città vecchia, le famiglie in fuga, gli orfani, i comando occidentali, il generale a capo dell'assedio che dice non faremo prigionieri tra i miliziani dell'ISIS. È la battaglia per la conquista, la riconquista della città dalle truppe dello Stato Islamico. Tra l'altro, venendo invece in Italia, c'è questa storia che sui giornali è uscita ed è stata sviluppata nel weekend a Garbagna. La storia di Lara Bombonati, Khadija, come si è autonominata dopo la conversione all'Islam, che è stata arrestata, e il marito Francesco Cascio, o Mohammed, una volta diventato musulmano, che invece è morto in battaglia. Nel paesino di Lara, jihadista italiana, col chador o il burka, non parlava mai. Elisa Sola racconta sul Corriere della Sera il viaggio a Garbagna, in provincia di Alessandria, dove Lara Bombonati è stata arrestata a rischio di radicalizzazione, è stata accusata e accusata di terrorismo internazionale, di aiuto ad alcuni terroristi, più volte i suoi viaggi in Turchia e poi anche in Siria, dove il marito appunto è morto. Era controllata dal 2014, è stata ora arrestata e il Corriere della Sera va a fare un viaggio nel suo paese. Oh signore, invece, che succede in un paesino, vale a dire Niscemi? Si è materializzato il terrore per tutti gli studenti. Per tutti gli studenti il terrore qual è in questo momento di vacanza? Tornare a scuola, no? Già mio figlio mi ha detto, mamma mia, manca poco all'inizio della scuola. Ma come manca poco? Non so se ce la faccio a leggere un libro che tra poco inizia la scuola. Ma come tra poco? Tra 2 mesi e mezzo inizia la scuola, caro Mattia. Però, cosa succede? Non per tutti. Un preside a Niscemi, Scuola Superiore Leonardo da Vinci, ha convocato 1200 ragazzi che pensavano di essere andati in vacanza, dicendo: signori, ragazze, ragazzi, mancano 60 ore. Non le abbiamo fatte perché faceva freddo a dicembre e gennaio, per il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento a dicembre e gennaio la scuola è stata sospesa, l'attività era stata ridotta, ma dobbiamo fare, come prevede il Ministero, un tot di ore. Quindi tutti convocati dal 17 al 22 di luglio. Una settimana manca. Mancano 60 ore. Leggete qua, Lorena Loiacono sul Messaggero, pagina 16. Controordine, la scuola non è finita. Non per tutti, almeno non a Niscemi. Pensavano di essere già in vacanza 1200 ragazzi della Scuola Superiore Leonardo da Vinci, ma non è così. e sono in forse anche gli scrutini, le promozioni e gli esami di maturità in corso. Il preside, con un'ordinanza, ha deciso che le classi dovranno tornare a scuola per una settimana dal 17 al 22 luglio. Dovranno tornare a scuola anche 120 docenti. E qui la vedo grama. Però, insomma, vediamo. Un po' una sorta di rivisitazione di Immaturi, il film di Paolo Genovesi, in cui si veniva chiesto a un gruppo di quarantenni di ripetere l'esame di maturità. In questo caso non è un incubo, è la realtà. Lì forse era uno scherzo, se ricordo bene il film. Comunque, il preside: a luglio si torna in classe. Lo faccio vedere anche nella mia pagina Facebook. A luglio si torna in classe. Va bene, non ho qui la Gazzetta dello Sport, forse lasciamo stare il caso di Gigi Donnarumma, che l'ultima è che pare abbia scritto su Instagram: torna a trattare col Milan, e poi ha dichiarato che gli avevano hackerato il profilo. Hackerato il profilo, quindi ha detto chiudo tutto, e va bene. Ma questo mi dà il là per dedicare a tutto ciò l'articolo più inutile del giorno, la carta costa, al nostro premio, a mio insindacabile giudizio, l'articolo più inutile del giorno, è di Stefano Caselli sul Fatto Quotidiano, quando si racconta il caso Donnarumma e il dilemma, ma contestare da parte dei tifosi, magari col lancio dei dollari, Donnarumma, contestare è un diritto sacrosanto del tifoso deluso oppure no? Ma chi se ne frega!